Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è La perfezione è inutile, soprattutto sotto Natale. Se mi leggi o ascolti da un po', potresti ricordare che ho ricominciato da zero due volte in 2 anni in 2 città diverse. Insegno yoga da più di 20 anni e non comprendo gli insegnanti di yoga ieratici a tutti i costi. In questa stagione io sono Team Grinch. E in questi giorni sto iniziando a desiderare di essere già al 7 gennaio. Però non posso saltare alla fine anno come farei con una canzone di Mariah Carey. E allora sto. Sto nel buio a precipizio di questo momento dell'anno, sapendo quello che queste feste rappresentano davvero, e cioè la risalita della luce che guarda caso comincia ad espandersi di nuovo a partire dall'inizio dell'inverno, cioè fra pochi giorni. Mi organizzo per passare il tempo con persone con cui davvero voglio condividerlo e non con chi è richiesto da convenzioni comuni e dagli obblighi sociali. Da dove arriva questa capacità di dare un senso personale a un grappolo di settimane che per me sono faticose? Ora te lo racconto. È presente la frase «Non cercare di essere perfetto, sei già perfetto». Immagino di sì. Detta così, a me non risuona. E sappiamo bene quanto sia necessario che le parole ci risuonino per poterle assorbire e poterle vivere perché possano davvero cambiarci. Quello che pesa è l'idea di come dovrebbero essere le cose, di come dovrebbero andare. È essere perfetto, secondo l'idea che hai di come dovresti essere, che oltretutto, nella maggior parte dei casi, diciamamolo, non è nemmeno un'idea tua, ma arriva da lontanissimo, da condizionamenti generazionali, familiari e sociali, un po' come le settimane natalizie. Cosa succede quando ti ricordi che sei vivo o viva? Che sei su questo pianeta? Non hai bisogno di corrispondere all'idea di perfezione per meritarti di essere qui ora. Il solo fatto che tu ci sia, la tua stessa esistenza, è prova che sei degno, degna di questa vita. E di amore, di bellezza e gentilezza. Non hai bisogno di guadagnartelo al tuo posto nel mondo. Esisti. Quindi già c'è. È un dato di fatto. E i fatti non hanno bisogno di perfezione e non hanno bisogno dell'approvazione di nessuno, nemmeno di Babbo Natale. Se hai mai partecipato a un incontro yoga guidato da me, potresti ricordare che una frase che dico spesso è corona sulla testa. Eccoti l'esercizio per ricordarti che non hai bisogno di essere perfetto o perfetta. Ovunque tu sia, in questo momento, ascolta i tuoi appoggi a terra, che siano i piedi o i glutei. Chiudi gli occhi e senti di avere sulla testa una bellissima corona luminosa, ma falla così lucente che quando gli alieni dallo spazio guardano la terra, vedono la muraglia cinese e la tua corona. Continua a sentire la corona sulla testa e apri gli occhi. Continua la tua giornata conservando la sensazione della corona. Voilà! Sei nel tuo posto al mondo, è un dato di fatto. Ne sei degno, degna. Hai perfino la tua corona sulla testa. Vuoi essere guidato da me in consulenze individuali e in percorsi di gruppo? Vuoi ricordare a qualcuno, te compreso, che è degno di sentirsi sempre la corona sulla testa? Vuoi fare un regalo originale? Seguendo il link c'è qualche idea. Un grande abbraccio che ti tiene un istante tra cielo e terra, alla faccia della stella cometa.